Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Nell'acqua l'uomo non può sopravvivere. Come tutti i mammiferi ha bisogno dell'aria per ossigenare il sangue, ma è come attratto dall'acqua, elemento primordiale della vita, alla ricerca del significato più profondo della sua esistenza. Quello con l'acqua per l'uomo è un rapporto di attrazione e repulsione, amore e odio, vita e morte. È il 22 settembre 1974. Siamo al largo del Capo di Sorrento a bordo del Jolly 2, una nave oceanografica che il suo proprietario, l'ingegner Martinez, ha messo a disposizione del comitato organizzatore di un'impresa senza precedenti che sta per avere luogo nelle acque campane. Ormeggiata davanti alla prua del Jolly 2 c'è anche il Bayonne, un vecchio barcone militare da sbarco noleggiato dalla RAI per riprendere in diretta quell'evento che ha tutte le caratteristiche per passare alla storia. È un avvenimento a metà tra la ricerca scientifica e l'impresa sportiva. È la ricerca del record di apnea profonda in assetto variabile. Oggi, infatti, uno sport fino a poco tempo prima di nicchia, pratica esclusiva di un selezionato gruppo di appassionati, si trasforma in evento mediatico. Quella truppa del RAI, con grande dispiegamento di forze, da giorni segue i preparativi per il nuovo coraggioso tentativo di record. Interviste, prove, allenamenti, misurazioni scientifiche, tutto viene documentato. E numerosissimi spettatori da casa si apprestano a seguire l'evento trasmesso in diretta in Eurovisione. Gran parte del merito di questo risalto mediatico è da attribuire all'uomo che sta per compiere quell'impresa, uno dei più grandi sportivi italiani, una figura che con il suo carisma e la sua forza ha cambiato per sempre la percezione dell'apnea. Quell'uomo si chiama Enzo Maiorca. Enzo Maiorca. All'immersione in apnea sono destinati tutti coloro i quali si annidano bene nel liquido amniotico, come se fosse una sorta di ricordo ancestrale. Un ricordo ancestrale, come dice il professor Enzo Maiorca, siracusano, classe 1931, che da una quindicina d'anni cerca di superare i propri limiti e le regole della scienza. Questo straordinario atleta è stato il primo a superare la barriera dei 50 metri di profondità negli anni 60. Quando la comunità scientifica unanimemente considerava quel limite invalicabile a causa della convinzione che la pressione esterna avrebbe fatto collassare la gabbia toracica, il siracusano si deve essere detto: se arrivo con facilità e in buone condizioni a 48-49 metri, perché non dovrei arrivare a 50 e oltre? E così fa. In barba a tutte le raccomandazioni, animato da una incredibile forza di volontà che ancora oggi gli illumina lo sguardo. Da allora è un susseguirsi di record che lo hanno portato oltre i 60 metri, oltre i 70 e ancora più giù. Quella domenica, il 22 settembre 1974, vuole arrivare a quota 87 metri di profondità, un record incredibile. Ci sono tre discipline nell'apnea. L'assetto costante, in cui l'apneista scende con le sue pinne seguendo un cavo tirato verso il basso e risale con le sue pinne senza utilizzare il cavo. L'assetto variabile, nel quale si scende con l'ausilio di una zavorra e si risale con le pinne e qualche bracciata seguendo il cavo. E infine l'assetto variabile assoluto, o meglio conosciuto come No Limits. Qui si scende con l'ausilio di una zavorra e si risale aiutandosi con qualsiasi mezzo per aumentare la velocità, per risalire più in fretta possibile. Il tentativo di Maiorca di quel 1974 è un assetto variabile, con zavorra. La vera sfida dell'apnea, però, non consiste nella semplice discesa, non consiste nemmeno nel costringersi alla privazione dell'azione istintiva che più di ogni altra caratterizza il mammifero, la respirazione. C'è una sfida più dura, più cruenta, che spinge il proprio limite all'estremo. Resistere a una pressione dell'acqua sulla gabbia toracica, tale da farla cedere come una superficie ghiacciata che si crepa e si frantuma per via di un peso che la schiaccia. A 10 metri di profondità, infatti, la pressione esercitata su un centimetro quadrato di pelle è di circa un chilo. A 50 metri diventa di 5. A 100, ovviamente, 10. 10 chili per centimetro quadrato. Così all'inizio non si credeva che l'uomo avrebbe potuto superare i meno 50 metri. I polmoni, infatti, man mano che la pressione aumenta, diventano più piccoli. Quindi la paura era che il vuoto interno alla gabbia toracica la facesse implodere. Maiorca, senza supporti scientifici, si era avvicinato molto negli anni 60 a quella quota. Ma i medici erano stati categorici, non oltre i 50 metri. Lui però non riusciva a credere che, sentendosi così bene vicino ai meno 50, non potesse superarli anche solo di un metro. E così ha tentato. Ed era andato ben oltre i meno 50, grazie al fenomeno del cosiddetto blood shift, che consiste nel naturale deflusso del sangue all'interno della cassa toracica, man mano che i polmoni rimpiccioliscono a causa della pressione dell'acqua. Il sangue è un liquido e non si può comprimere, ed esercita quindi una pressione contraria a quella dell'acqua. Torniamo nel Golfo di Sorrento, dove oggi, 22 settembre 1974, Enzo Maiorca vuole stabilire il nuovo record di apnea profonda in assetto variabile. Mentre la RAI è mobilitata al massimo per il record, l'Italia è tutta stretta attorno all'apneista di Siracusa. La diretta è assicurata da un gruppo di riprese che si avvale di apparecchiature molto innovative per l'epoca. Ma il caos è dappertutto. Accrediti forniti con eccessiva disinvoltura affollano il campo di immersione di personaggi inutili in un momento così delicato. Giornalisti, appassionati, video amatori. Andiamo sott'acqua e vediamo che cosa succede. Un cavo d'acciaio è tirato dalla piattaforma galleggiante sulla fiancata del Jolly 2. Quel cavo è l'unità di misura della profondità che l'atleta dovrà raggiungere solamente con l'aiuto della propria spinta e di quella di una zavorra. Tutt'attorno è una confusione unica di cameraman, tecnici, amici fidati, curiosi. Un'atmosfera nella quale è difficile raggiungere la concentrazione. Il rilassamento, la convinzione sono fondamentali in questo sport. Ma Maiorca confida principalmente nella propria forza di volontà, supportata da quella fisica. Sono attimi di tensione, quelli dell'iperventilazione dei polmoni, prima di scendere nel profondo blu. L'Italia intera segue l'evento in diretta televisiva. L'ultima boccata del prezioso gas atmosferico e Maiorca fa la capovolta, immergendosi nelle acque scure di Sorrento. Qualcosa è andato storto. L'apneista siciliano, dopo soli 20 metri, va a sbattere contro qualcosa. Prende una capocciata, insomma, si volta, si gira e risale. È furibondo. Maiorca si lascia andare ad espressioni colorite anche più di questa, tra cui una bestemmia che gli costerà l'allontanamento dalle TV per quasi un decennio. Quel qualcosa contro cui era andato a sbattere sono delle bombole. Un improvvisato sub si trovava al posto sbagliato, al momento sbagliato. Curiosità, chi era? Si tratta di Enzo Bottesini, un sub amatore specializzato in riprese subacquee che nel 1972 era salito alla ribalta per essersi laureato campione al rischiatutto di Mike Bongiorno. La RAI lo contatta per seguire l'evento, ma nella confusione più totale si trova proprio dove non avrebbe dovuto essere. Maiorca lo travolge e tutta l'impresa crolla. Ora abbiamo capito che la storia di oggi, nelle profondità del mare, è ricca di incroci e di intense relazioni. La storia dello sport ci ha insegnato che a fare grandi le discipline sportive non sono mai i singoli campioni, bensì le rivalità. La chiave del successo mediatico dell'apnea, di cui abbiamo avuto un assaggio, risiede proprio in una rivalità. Uno fa grande l'altro, si dice. Anche Maiorca è grande, famoso e importante, perché si trova coinvolto in una straordinaria lotta senza quartiere condotta a colpi di immersioni. L'altro, ovviamente, è il nostro primo personaggio di oggi. Si tratta di un francese, ma sarebbe meglio dire un cittadino del mondo. Il suo nome è Jacques Maillol. Jacques Maillol. Quando io ero all'università, intendendo con questo che avevo già fatto ben 6 record di immersione, Jacques Maillol era alle scuole elementari. Quindi se c'è qualcuno che ha imparato qualcosa, questo è lui ad averla imparata da me. Le schiette parole di Maiorca esprimono bene la rivalità tra i due campioni, protrattasi per molti anni anche oltre il periodo delle competizioni. Una rivalità che ha gettato le basi dell'apnea moderna e di due concezioni completamente diverse con cui interpretarla. Una, diciamo, più fisica e muscolare, l'altra più mentale e contemplativa, quasi ascetica. L'immersione fallita da Maiorca nel 1974, che vi abbiamo appena raccontato, passata alla storia per via delle circostanze surreali in cui naufraga, è in realtà la risposta a un record appena stabilito da Maiolla, che a sua volta aveva strappato il primato all'apneista siciliano. La vita di Jacques Maiolla è intensa e affascinante e lascia capire molto di quello che sarà il suo approccio alle competizioni. Nasce a Shanghai nel 1927, perché lì i suoi genitori si trovano per lavoro. Viene al mondo il 1 aprile e questo gli vale sin da piccolo il profetico soprannome di Pesce. Fino a 10 anni vive in Giappone. Qui, quando è ancora molto piccolo, si verifica un episodio straordinario che lo segnerà per sempre e che racconterà in uno dei suoi libri. Spesso i miei genitori affittavano una barca da pesca e io e mio fratello andavamo a esplorare gli isolotti che si trovavano vicino alla costa, dormendo all'addiaccio, immergendoci dalla mattina alla sera, scoprendo ogni giorno dei fondali più belli, dei pesci multicolori e meravigliose conchiglie. È stato nelle vicinanze di uno di questi isolotti che mi sono trovato a tu per tu con un gruppo di piccoli delfini. Essi assomigliavano vagamente a quelli che avevo visto dal parapetto di una barca 3 anni prima. Mi si avvicinarono molto ed io, invece di aver paura, ebbi il riflesso di nuotare verso di loro. Sentivo il mio piccolo cuore battere a tutta velocità. Ero commosso, curioso e sovraeccitato. Avrei voluto toccarne uno, ma più mi avvicinavo, più loro mantenevano le distanze. Ad un certo punto qualcuno mi chiamò dalla barca e loro, come se avessero captato il messaggio, sparirono. Se ne andarono di colpo. Gira il mondo, si arruola nell'aviazione americana a 17 anni perché vuole combattere i tedeschi. Poi, dopo la guerra, il suo animo irrequieto lo porta a fare 1000 mestieri diversi al di qua e al di là dei continenti. Negli anni 50 la svolta. Un'amicizia un po' particolare, per dire la verità, perché non è con un uomo, ma con un delfino. Si chiama Clown. È il delfino con cui Jacques stringe amicizia. Si trova a Miami, nel parco acquatico più grande della Florida, dove Maiolla viene mandato da Radio Canada, network radiofonico per il quale lavora. Deve fare un servizio sui delfini del parco, ma in quel parco decide di rimanere. Viene assunto nel team preposto alla manutenzione, ma gli viene concesso anche di nuotare con i delfini. Un'esperienza incredibile. Proprio nella vasca, nuotando accanto a Clown, osservandolo, Maiolla impara più di quanto si possa imparare in tutti i corsi di subacquea e di apnea del mondo. Impara come respirano e come si muovono questi straordinari mammiferi. Impara la loro capacità di essere parte integrante e rispettosa dell'ambiente che li circonda. Impara a fondersi con l'acqua. Impara soprattutto che l'apnea, spingersi nelle profondità del mare, è soprattutto uno stato mentale. È un modo per lasciare emergere una parte primitiva della propria natura, che trova il proprio completamento circondata dalle immensità azzurre e sconfinate degli abissi marini. In quei giorni, insomma, nasce l'uomo delfino. Maiolla sviluppa una tecnica tutta sua nell'interazione con i delfini. Scendo in posizione verticale, con le braccia in fuori, protese verso il delfino. Arrivo sul fondo, sulla sabbia o sul fondale che c'è, e mi siedo. Cerco di far uscire delle vibrazioni dalla mia gola, ad imitazione del verso dei delfini. In genere, se il delfino non se ne va subito, quando mi immergo, inizia a nuotarmi intorno e viene incontro alle mie braccia protese. Qui si stabilisce il contatto. funziona quasi sempre. È una specie di telepatia o ipnosi, come se entrasse nella mia aura e io sento di averlo in pugno. Se in questo modo Maiolo impara a scendere nelle profondità del mare e a sentirsi a proprio agio, l'idea dell'apnea competitiva gli viene quando incontra il suo futuro rivale, Enzo Maiorca. Si incontrano nei primi anni 60, quando Maiorca è già affermato e noto per avere sfondato quota meno 50 e per ritoccare ogni anno di un metro il suo record. La sua forza sono potenza e volume polmonare. Maiolo lo osserva, lo guarda negli occhi e capisce che può batterlo, non sulla potenza, ma grazie alla sua visione del mondo e del mare. Così nel 1966 scende primo uomo a meno 60 e si rivela al mondo. Maiorca, orgoglioso e competitivo, non può accettare la detronizzazione. Per 22 anni, fino al 1983, si sfideranno a colpi di record, una sequela di botta e risposta che sembra una partita di tennis. Dagli anni 70, come abbiamo visto, il pubblico si appassiona a questi grandi campioni. Da casa, davanti alla TV, appassionati e non, osservano i giganti dell'immersione sfidare i propri limiti. A noi interessa ora proprio uno di questi spettatori. Un uomo che vede e gusta questa sfida a distanza e che a distanza di anni le permetterà in un certo senso di cambiare la propria vita. È il nostro secondo personaggio di oggi. E chi è? Lo scopriremo tra poco. You cut me down a tree and brought it back to me, and that's what made me see where I was going wrong. You put me on a shelf and kept me for yourself. I can only blame myself. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati stiamo raccontando storie di grandi uomini che si intrecciano nelle profondità del mare. Storie che si avvitano intorno allo sviluppo e alla diffusione di una disciplina sportiva da sempre considerata in qualche modo minore, di nicchia, per pochi. L'apnea. Negli anni 70 l'interesse dei media e del grande pubblico si accende su questa affascinante disciplina e, come spesso accade, il motivo è legato a due grandi figure e alla loro grande rivalità. Enzo Maiorca è il primo, siciliano, forte, possente, duro. Il primo uomo a scendere sotto i 50 metri in assetto variabile assoluto. Il secondo è Jacques Maiol, altro tipo di personaggio, riflessivo, sfuggente, emotivo. Vede l'immersione nelle profondità come un processo mentale, come un dissolvimento di sé in uno stato liquido che consenta una perfetta fusione col mare. Lui è il nostro primo personaggio di oggi. Il secondo, quando negli anni 70 Maiol e Maiorca si sfidano a colpi di record, è solo un ragazzino. Ma è lì, incollato al televisore, affascinato e rapito da quella straordinaria rivalità. Il suo nome è Umberto Pellizzari. Umberto Pellizzari. E il suo destino comincia a cambiare proprio guardando quelle sfide. Qui, sì, certo, me le ricordo questi challenge, queste sfide tra Maiol e Maiorca, perché fin da piccolo io seguivo, ero un po' così, malato di apnea. Mi arrivavano appunto queste apnee statiche in piscina, mi guardavo intorno e si parlava di questi due grandi. Come tutti gli appassionati che seguono quella rivalità, in quegli anni Pellizzari non può fare a meno di notare le differenze tra i due grandi atleti. Diciamo che è vero che uno si allenava soprattutto con lo yoga, con queste tecniche mentali, e l'altro si allenava soprattutto andando in acqua e allenandosi molto, lavorando molto fisicamente. E come tutti gli appassionati, il giovane Umberto Pellizzari sceglie da che parte schierarsi. Così da un lato ammira la tenacia e la forza di Enzo Maiorca, ammirazione cresciuta per quella capacità di andare contro tutto e contro tutti, sotto i 50 metri di profondità, quando la scienza unanimemente considerava impossibile riuscirci. E poi si vede, come dicevo, la grandezza di un uomo, non solo dell'atleta ma della persona. E è lì che probabilmente, ed è grazie probabilmente anche a lui, se oggi ci troviamo a quote ben superiori. Se si fosse tenuto alle indicazioni mediche di questi professori che, basandosi su semplici modelli, cioè semplici, più o meno semplici modelli matematici o fisici, cercavano di creare intorno a lui questa gabbia. E lui, mi ricordo, ogni volta dice: io non potevo permettere che uno che là sotto non c'era mai andato neanche con le bombole potesse prevedere e stabilire quello che il mio corpo doveva fare. Dall'altro però trova più vicino alla sua sensibilità l'approccio di Jacques Maillol. Da lontano, da spettatore, assiste esaltato al susseguirsi dei record dei due atleti. Dopo quella diretta televisiva del 1974 che abbiamo rievocato, Maillol e Maiorca si sfidano continuamente nelle tre discipline dell'apnea. Nel 1981 Maiorca tocca quota 101 metri. Nel 1983 Maillol arriva a 105. Hanno varcato soglie che per la scienza erano assolutamente impensabili. La loro rivalità è pronta a cedere il passo alle giovani generazioni. Osservando i record di Maiorca e di Maillol, Umberto Pellizzari sviluppa la sua passione per l'apnea e per le immersioni. Sul finire degli anni Ottanta arriva la scelta di dare una svolta alla sua vita, al suo rapporto col mare e alla sua carriera. Ho terminato l'università, ero un bravo apneista, ero un forte apneista, però non ero nulla di che, ero giusto tra i migliori. Bisogna diventare il migliore per poter fare l'apneista e non l'informatico, io mi sono laureato in informatica. E quindi terminato tutto, discuto la tesi nel mese di luglio, chiedo il trasferimento all'Elba, ero nei Vigili del Fuoco, nel gruppo sportivo, stavo svolgendo il mio servizio militare, mi mandano al comando di Livorno, poi mi trasferiscono all'Elba e lì ho iniziato a fare allenamento, però non potevo pensare, cioè non osavo neanche dire che mi stavo allenando per superare un record, il record erano di Pippin, questo cubano che era imbattuto da parecchi anni. L'Elba è il quartiere generale di Maillol, ma Pellizzari al momento non lo incontra. Dimostra però da subito di avere un talento e una predisposizione incredibili, che sorprendono addirittura lui. Ero un bravo apneista in piscina, statica, dinamica, però non avevo esperienza sulla profondità. E quindi così, arrivo all'Elba, conosco Massimo Giudicelli, questa persona che sarebbe poi diventata il mio allenatore, e iniziamo ad incrementare le quote. Ci poniamo questo obiettivo di 55 metri in 5 mesi e invece partiamo lunedì e il venerdì dopo 5 giorni siamo già a 55 metri. Il record era di Pippin, meno 63, quindi non molto lontani, soprattutto quindi mancava ancora parecchio, avevamo ancora parecchio tempo a disposizione e lì si partì con l'idea di organizzare un record e il primo fu appunto in assetto costante. Pippin. Questo è il nome fatto da Umberto Pellizzari. Si tratta di Pippin Ferreras, un apneista cubano classe 1962, cresciuto sulla costa settentrionale dell'isola caraibica. Qui ha iniziato a immergersi a 5 anni. Poi si è appassionato alle gesta di due grandi atleti, naturalmente Enzo Maiorca e Jacques Maillol. La sua scelta di campo lo porta verso Maiorca, di cui diventa allievo. Lui è il detentore del record in assetto costante nel 1990 e sarà il grande rivale di Pellizzari in un duello che riproporrà i fasti delle sfide tra i due grandi maestri. Pippin, infatti, si trasferisce in Sicilia e viene seguito e istruito dal team di Maiorca. Pellizzari dapprima si ispira a Maillol, poi lo incontrerà e quell'incontro cambierà definitivamente la sua vita e la sua carriera, come lui stesso ci anticipa. Poi io e Pippin abbiamo un po' fatto rivivere in parte questo forte dualismo, ma l'abbiamo fatto rivivere perché io ero un allievo di Maillol, Pippin arrivava da Maiorca, la squadra mia era costituita in gran parte dagli assistenti di Maillol, i suoi da Maiorca, il suo era un modo tipico di andare sott'acqua, tipico della squadra di Maiorca, quindi basato molto sulla forza muscolare, il mio era molto più basato sul rilassamento e sulla concentrazione, sull'aspetto mentale, tipico di Maillol. Quindi era un po' le due scuole, questi due uomini che si ritrovavano di nuovo uno contro l'altro attraverso i loro allievi. E questo credo abbia fatto anche un po' la fortuna mia e di Pippin in termini di comunicazione, di immagine, perché non si comunicava solo una misura che aumentava di 2, 3, 5 metri, ma era proprio una filosofia che si contrapponeva all'altra. Il fatidico incontro tra Pellizzari e Maillol, la rivalità con Pippin, lo scontro a distanza tra Maiolo e Maiorca che tornano antagonisti a distanza di anni attraverso i loro allievi. Tanti altri fatti in una storia ricca di eventi suggestivi ed emozionanti. Tra poco, a destini incrociati. A sentimental fool am I to hear an old love song and wanna cry, but the melody keeps haunting me, reminding me how in love we used to be. I keep hearing the part that used to touch my heart saying together forever. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati abbiamo raccontato la mitica rivalità tra Enzo Maiorca e Jacques Maiol, i due apneisti più famosi al mondo, che si sfidano a colpi di record tra gli anni 60 e gli anni 80. Quando l'età li spinge a uscire di scena, ad allontanarsi dal ruolo di protagonisti assoluti, ecco che attraverso due allievi, due straordinari atleti in grado di rinverdire i fasti delle loro gesta, Maiorca e Maiol tornano rivali. I due nuovi contendenti sono Umberto Pellizzari, scuola Maiol, e Pipin, scuola Maiorca, e si fronteggiano nella stagione più fertile dal punto di vista mediatico della storia dell'apnea, in un periodo in cui la rivalità tra le due scuole e le due filosofie porta un risalto e una notorietà senza precedenti a questo sport, come ricorda lo stesso Pellizzari. In un periodo in cui usciva Le Grand Bleu, questo film di Luc Besson che ha reso famosa l'apnea in tutto il mondo, in un periodo in cui sponsor importanti investivano su sport estremi, per esempio Sector, così all'epoca, e quindi tutto era più facile in questo senso, proprio come comunicazione, per arrivare in ogni casa, per arrivare, per avvicinarci a tutti. Quindi è questo che ha fatto anche la fortuna mia di Pippini, che siamo stati forse gli unici ad aver vissuto questo sport da professionisti. Nel 1988, infatti, esce il film Le Grand Bleu, diretto dal famoso regista francese Luc Besson. Un film diventato subito oggetto di culto in Francia, bloccato in Italia fino al 2002 per una serie di controversie legali. Il motivo è molto semplice. Il film racconta la storia di due ragazzi, Jacques ed Enzo, che crescendo diventano due apneisti che rivaleggiano a colpi di record. Il riferimento a Maiol e Maiorca è fin troppo chiaro e il film indugia a lungo sulla complessa personalità del francese, liquidando il nuotatore siciliano in maniera forse un po' troppo sbrigativa. Maiorca se la prende, fa causa e il film in Italia si blocca per 13 anni. Le Grand Bleu contribuisce nel 1988 a portare fama e notorietà all'apnea. Solo due anni dopo, però, accade un evento che segna la storia di Umberto Pellizzari e di conseguenza delle vicende di questo sport negli anni a venire. Il nuotatore italiano, che ha già acquisito un'impostazione alla Maiol, dopo anni finalmente ha la possibilità di incontrare il suo idolo. E lui stesso, non senza emozione, a rievocare quell'incontro determinante. Avevo già stabilito il mio primo record, ero a Parigi, al Salone della Subacquea, era incluso anche il Salone Nautico, includeva anche il Salone della Subacquea, e quindi lo conobbi a Parigi nel 1990, un mese dopo aver stabilito il mio primo record in assetto costante. Per me mi ricordo quando mi stavo avvicinando, accompagnato da questa persona allo stand dove lui firmava apposta, erano migliaia di francesi in quella situazione, caspita, mi mancava il fiato, cioè era una cosa per me molto forte, anche se ero molto emozionato. E niente, lo conobbi lì, aveva sentito parlare di me, perché appunto chiamando all'Elba tutti gli amici, il Corsaro, parte del suo staff, queste persone gli avevano appunto parlato del mio record e di me come apneista, come persona, quindi mi conosceva per sentito dire, ma mai personalmente. Ci siamo conosciuti lì, ci siamo poi ritrovati l'anno dopo nel 91 ad aprile all'Elba. Quando rientrò mi chiamò, mi invitò all'Elba, e lì mi ricordo il 13 aprile fu il primo giorno in cui andai sott'acqua con lui, come se fosse stato ieri, per me è un bellissimo ricordo. Jacques Maiol prende Pellizzari sotto la sua ala, gli spiega tutto, si mette a sua disposizione con il suo staff. Gli suggerisce soprattutto una cosa importantissima: le profondità del mare vanno sentite dentro, nel cuore e nell'anima. e dentro bisogna sentire il senso di comunione, di vicinanza con tutto ciò che è ambiente marino. Io all'inizio lui mi diceva: tu sott'acqua non sai andarci, avevo stabilito il mio primo record. Allora dicevo: perché non so andare in apnea? Ho fatto un record. Dicevo: no, perché potrai scendere ancora qualche metro, però alla fine troverai delle difficoltà e dei limiti, perché tu stai scendendo sott'acqua solo fisicamente. Ogni volta che vai sott'acqua sei concentrato su un obiettivo, cioè stai sfidando la profondità, il tuo obiettivo è quello di ritornare in superficie con qualche metro in più. E mi diceva: quello che dovresti fare invece è scendere in acqua, e in ogni tuffo dovresti avere una sensazione più forte, più bella rispetto al tuffo precedente. Io ero troppo fisico, muscolare per lui, e quindi frequentandolo mi ha fatto cambiare completamente la tecnica, ma non indicandomi come dovevo tenere la testa, come dovevo pineggiare, come doveva stare il mio corpo, semplicemente ponendomi dei punti d'arrivo, degli obiettivi che si sarebbero stati raggiunti soltanto se prima avessi lavorato bene con la respirazione, con il rilassamento, con la parte mentale. E su questi aspetti Umberto lavora. Dal suo incontro con Maiolla la sua vita cambia radicalmente e arrivano record uno dietro l'altro in un crescendo straordinario e inarrestabile. Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Sto accelerando e adesso ormai ti prendo. Mare, mare, mare, sai che ognuno c'ha il suo mare dentro al cuore, sì. E che ogni tanto gli fa sentire l'onda. Mare, mare, mare, ma sai che ognuno c'ha i suoi sogni da inseguire, sì. Per stare a galle e non affondare, no, no, yeah. Dopo che Pipin gliel'aveva sottratto, nel 1992 Umberto riconquista il record mondiale di immersione in apnea in assetto costante con meno 70 metri. L'11 ottobre 1993 scende a meno 123 metri in assetto variabile No Limits. Il 24 luglio 1994 a Cala Gonone d'Orgali in Sardegna a meno 101 metri. Pellizzari conquista il nuovo record mondiale di immersione in apnea in assetto variabile regolamentato. Si prende il record, insomma, in tutte e tre le specialità dell'apnea e continua a migliorarli, mentre Pipin, sorretto dal team Mallorca, cerca di rispondere colpo su colpo in una rivalità straordinaria. Il 24 ottobre, col supporto tecnico della nave Anteo della Marina Militare Italiana, Pellizzari è protagonista di un'impresa storica nel mondo della subacquea e della medicina. Arriva fino a meno 150 metri in assetto variabile No Limits, in un tempo di 2 minuti e 57 secondi. Pellizzari, l'uomo liquido, tocca il limite mai raggiunto dall'uomo in apnea. In questi anni stabilisce un altro record, apnea statica in piscina, 7 minuti e 2 secondi. Arriviamo al 2001, un anno decisivo. Umberto scende a meno 131 metri in 2 minuti e 44 secondi in assetto variabile regolamentato. Un altro record straordinario. Gli appassionati si esaltano per questa rivalità a 4 che sembra non cessare. Mallorca e Pipin da un lato, Maiolla e Pellizzari dall'altro. Umberto dedica questo record a tutti coloro che nei trascorsi 11 anni di attività gli sono stati vicini e si ritira dalle competizioni. La dedica in particolare va a Jacques Maiolla. L'uomo delfino, che gli ha trasmesso una filosofia di vita, una visione del mondo, gli ha cambiato vita e carriera. Alla fine di quell'anno, però, Jacques Maiolla si congeda dal mondo. È il 22 dicembre del 2001. Il gesto sembra il più inspiegabile e coglie di sorpresa tutti coloro che lo amavano e gli stavano accanto. Ma aveva fondamentalmente una forte depressione, per cui quando il cervello parte è poi difficile poterlo recuperare completamente, è più facile curare una malattia fisica che una malattia mentale. Era da un po' che era così, abbastanza depresso, stanco mentalmente, e probabilmente questa situazione l'ho portato a una scelta così estrema. Quello che ha sorpreso, che mi ha sorpreso, è che per tanti anni è riuscito a dominare il bisogno primario dell'uomo, che è quello di respirare, soprattutto con le sue conoscenze, che era proprio nell'ambito del rilassamento, della respirazione, dell'autocontrollo, non è riuscito a, come dire, non è stato capace di usare per sé queste tecniche che per tanti anni insegnavo tutti. Maiolla si suicida. Si chiude improvvisamente, quasi con deferenza e rispetto, una pagina di storia di questo sport. I riflettori si spengono, la rivalità fra Pipin e Pellizzari va in dissolvenza. Il nemico sportivo di una vita, Enzo Maiorca, si sente privato della sua necessaria metà. Le Grand Bleu di Besson, proprio grazie a un accordo tra il regista e Maiorca, esce nelle sale italiane. La tensione mediatica intorno a questo sport si attenua inevitabilmente. Quel che è certo è che la testimonianza di vita di Jacques Maiol non si scioglierà mai. Il suo amore per il mare, il suo desiderio di fondersi con l'acqua, con la profondità, la sua ricerca di un limite interiore coincidente con il perfetto equilibrio con la natura, sono lezioni che devono essere assimilate e che non vanno perdute. Nella loro semplicità indicano il profilo di un mondo migliore e di un uomo più vero. Umberto Pellizzari, che di Maiol è stato il figlio sportivo, questa lezione l'ha fatta sua. Ha imparato dall'uomo delfino che qualsiasi obiettivo è possibile se si lavora caparbiamente su se stessi. Lui, Pellizzari, si è guadagnato il soprannome di Uomo Liquido. Ci piace chiudere con il suo racconto di un aneddoto su questo soprannome, che sembra intriso di quella trascendenza della semplicità che ha caratterizzato il pensiero e la vita di Jacques Maiol. Sì, ero alle Maldive, questo pescatore si chiama Brisbane. Io non lo conoscevo, lo vedevo ogni tanto, si avvicinava quando mi allenavo la mattina fuori dalla barriera corallina. E una sera ero in fondo al molo, stavo pescando con un filo e un amo, giusto per passare qualche ora. Si avvicina e inizia a parlarmi, così nel suo inglese molto, molto incerto. Era il 1991. E niente, così passiamo un po' di tempo insieme. Si dopo dice: ti ho visto oggi scendere, complimenti per come vai. E mi disse: io non so neanche nuotare, però vorrei darti un consiglio. Io aveva una noce di cocco. Fece cadere il latte della noce di cocco in acqua, poi si abbassò, prese un pezzo di corallo e lo buttò in acqua. Mi disse: ogni volta che vai in acqua devi cercare di essere come il latte di cocco, non come il pezzo di corallo, perché il pezzo di corallo è ancora un pezzo di corallo là sotto, il latte di cocco è diventato il mare. And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.